potessi avere ancora 15 anni, forse mi riparerei dal profumo dei tuoi sguardi, senza voltarmi. Non si può scappare via, ma potessi ritornare sui miei passi. Scavalcando i tuoi cancelli, con i silenzi scalzi già, ma poi ci inciamperei.